L'aspetto più interessante, a mio avviso, è aver compreso, dialogando con un professore che si occupa di psicologia dei consumi, che sostanzialmente ormai la maggior parte di noi è cresciuta e si è formata e ha completamente interiorizzato un modello di società che è quello dell'usa e getta. Siamo sostanzialmente naturalmente spinti a un tipo di consumo che in alcun modo considera le esternalità negative prodotte. Questo da un punto di vista personale, ovvero della psicologia di ognuno di noi. Tutto questo in Italia si innesca in un contesto in cui le aziende che imbottigliano acqua minerale hanno la possibilità di accedere a un prezzo irrisorio, quasi paragonabile alla gratuità, a un bene comune, un bene demaniale, l'acqua appunto che è di proprietà della collettività, a cui accedono pagando al massimo 2 euro ogni 1000 litri per quanto riguarda i canoni di concessione e che appunto poi imbottigliano e vendono avendo a disposizione, dato che la materia prima è quasi gratis, milioni di euro da investire in pubblicità. Quindi i messaggi pubblicitari che attraverso la televisione, attraverso le pagine dei giornali, anche attraverso le radio promuovono il consumo di acqua minerale, spesso usando dei claim o dei messaggi che risultano ingannevoli o che almeno tali sono stati giudicati dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato, dall'istituto per l'autodisciplina pubblicitaria, e questo fa sì che le persone, diciamo così, abbiano maggiore fiducia nei confronti di questo prodotto del mercato che non appunto nell'acqua erogata dalla rete, per quanto appunto vi siano dei cambiamenti in corso anche per quanto riguarda la legislazione relativa alle acque potabili che stanno rendendo sempre più sicura la qualità dell'acqua distribuita dalla rete acquedottistica, anche per il tipo di approccio all'analisi dei rischi e non solo all'analisi della qualità dell'acqua, ma anche all'analisi dei rischi che rischiano di ledere le caratteristiche dell'acqua che viene immessa nella rete acquedottistica. Nel 2007 hai scritto un altro libro per Altra Economia che si chiama La piccola guida al consumo critico dell'acqua e quello era il periodo in cui si stava costruendo un coordinamento per il diritto all'acqua che ha portato appunto anche ad alcuni cambiamenti normativi a cui accennavi, da cui appunto era proprio emersa l'iniziativa referendaria del 2011, in particolare dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, appunto l'iniziativa referendaria sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. In cosa consistava questo referendum dove poi vinse proprio il sì e perché secondo te non è riuscito a cambiare la situazione in maniera sostanziale, quindi cos'è che non ha funzionato in questo movimento? Inizio dicendo che quando scrissi quel libro pensavo già che i livelli di consumi di acqua minerale nel nostro paese fossero una cifra record, no? E invece sono continuati a crescere, tra il 2010 e il 2025 sono aumentati di un ulteriore 30% e siamo arrivati, e questo vale la pena ribadirlo, a un consumo pro capite di 257 litri che è doppio rispetto alla media, più che doppio rispetto alla media europea. E bisogna considerare che ci sono paesi nel nord Europa dove si bevono 10 o 20 litri di acqua minerale a testa all'anno, quindi oltre 10 volte o addirittura 25 volte meno rispetto al nostro paese. Quel libro nacque in un contesto in cui si iniziava a ragionare di diritto all'acqua, ragionando di diritto all'acqua si parlava apertamente anche di un potenziale conflitto tra acqua potabile e acqua minerale legato a queste pubblicità eccessive che riguardavano il settore delle acque minerali. Da quel processo, in virtù di alcune trasformazioni legislative volute da un governo Berlusconi, si avviò anche il percorso che portò al referendum due sì per l'acqua bene comune, che venne vinto con una straordinaria partecipazione di popolo, aveva il quorum, quel referendum venne raggiunto il quorum e ci fu una nettissima maggioranza appunto di sì. Quel referendum, che riguardava in particolare alcuni elementi della tariffa del servizio idrico integrato, che volevano eliminare la remunerazione del capitale investito, sostanzialmente l'idea che si potesse far profitto sull'acqua, anche sull'acqua di rubinetto, non direi che ha fallito perché il movimento non è stato in grado di, diciamo così, di raggiungere il risultato auspicato, ma piuttosto che la politica non è stata in grado di cogliere la portata del messaggio che dietro quei due sì era palese, ovvero la volontà da parte dei cittadini di non fare dell'acqua una merce. E questo purtroppo appunto quindi a quasi 15 anni di distanza possiamo dire che non è riuscito. Però pensi che oltre alla responsabilità della politica ci sia anche una responsabilità, diciamo, importante in capo ai singoli consumatori da questo punto di vista? Allora, io credo sempre, è bella la prefazione a questo libro Imbottigliati che firma Fabio Ciconte, presidente dell'Associazione Terra, perché gliel'ho chiesta perché nel suo ultimo libro Il cibo è politica, lui riflette in maniera molto forte su questo elemento. Siamo sicuri che negli anni, spostando l'attenzione del consumo critico dalla politica, ovvero dall'importanza politica di determinate scelte, alla semplice evidenza della possibilità di scegliere un prodotto di qualità superiore, un prodotto biologico, un prodotto di filiera corta per il singolo consumatore o per la dieta della singola famiglia, non si sia perso il valore più intimo o il valore più forte, più significativo del come questi movimenti erano nati o avevano avviato la propria attività. Quindi credo che sia fondamentale e importante, quando si ragiona di questi termini, non richiamare tanto la responsabilità del consumatore. Il consumatore vive in un mondo in cui purtroppo non si è ancora riusciti ad aumentare i canoni di concessione e quindi a rendere perlomeno un po' più costosa l'acqua minerale, cosa che potrebbe indurre tanti a non sceglierla. O vive in un mondo in cui da 5 anni, anzi 6 a questo punto, si rinvia l'avvio della plastic tax, che appunto è prevista fin dalla legge finanziaria del 2020, legge di bilancio del 2020, ma ancora non viene effettivamente caricata come costo sui tutti i produttori di imballaggi. Quindi probabilmente manca l'intorno in cui consumare acqua, in particolare acqua minerale in bottiglie, in PET, quindi quelle di plastica che generano più rifiuti, o in Tetra Pak, venga visto come un problema, no? Quindi è ovvio che tutti potrebbero fare la scelta di non consumare acqua minerale nelle proprie case, però è molto difficile se questa attitudine non viene coltivata da una serie di messaggi che potrebbero essere diffusi, ad esempio anche come pubblicità progresso, no? Quindi chiedendo, magari immaginando sulle reti televisive delle pubblicità non di singoli marchi, non di singoli gestori del servizio di integrato, ma che semplicemente promuovano la qualità dell'acqua di rubinetto versus quella minerale. Una domanda un pochino che parte, diciamo, dalla mia esperienza personale, che riguarda più che altro il consumo di acqua in bottiglia fuori casa, perché io riscontro che un motivo che spesso spinge le persone a comprare l'acqua in bottiglia sia sostanzialmente il fatto che, anche se molti hanno la borraccia perché l'hanno comprata a loro tempo negli ultimi anni, a volte risulta difficile trovare un posto dove riempirla, cioè l'acqua che si trova ad esempio, per dire, nei bagni dei luoghi pubblici come possono essere i locali, i bar, a parte il fatto che molto spesso i gestori non fanno accedere ai bagni chi non consuma, e penso che sia anche legittimato comunque dalla normativa questo comportamento, questa scelta, ma poi appunto molto spesso chi sceglie di consumare l'acqua in bottiglia perché riscontra che l'acqua di rubinetto abbia un brutto sapore, e mentre a casa ci sono un sacco di soluzioni come possono essere i filtri, le caraffe eccetera, nei luoghi pubblici non si ha questa possibilità. Quindi per me il fatto che non ci siano ad esempio più sorgenti pubbliche in cui poter riempire la bottiglia riutilizzabile è un po' un problema. Ti volevo chiedere cosa ne pensi, se pensi che sia un fattore che in qualche modo rileva. Allora, io credo che il grosso del consumo di acqua minerale purtroppo è quello domestico. Per quanto riguarda i luoghi pubblici però è effettivamente vero quello che dici, nel senso che si sta riducendo il numero di fontanelle che erogano acqua costantemente con un flusso significativo. Una storia che ho raccolto nel libro è quella di una campagna che è in corso a Venezia, si chiama Venice Tap Water, ed è una campagna informativa in inglese perché rivolta ai turisti che raggiungono Venezia. Nella maggior parte dei casi sono turisti appunto che parlano lingua inglese, e vuole essere una mappatura delle fontanelle della città di Venezia e delle altre isole maggiori, proprio per promuovere il consumo di acqua, per far sì che loro sappiano dove ritrovare l'acqua, acqua di rubinetto, acqua di, diciamo, acqua potabile, invece di caricarsi di bottigliette di acqua minerale, che poi diventano un problema ambientale, soprattutto in una città fragile come Venezia, dove anche la gestione degli imballaggi e dei rifiuti è complessa, così come la consegna quotidiana di migliaia di litri di acqua minerale.